Buonasera Chiesa, ci siete? Pronti per un altro salmo? Questo salmo è? No, vi ho messi alla prova, non ci siete riusciti, è glorioso, che altro dovrebbe essere, no? È il mio termine preferito, questo salmo è? Lo è, bellissimo. Saltiamoci subito dentro perché è veramente bellissimo. È importante la mia preghiera tutta questa settimana durante la preparazione, che questa, la preghiera contenuta in questo salmo, possa diventare la nostra preghiera per quest'anno, e in particolar modo che possa diventare la nostra preghiera profetica per quello che ci chiama a fare come credenti e come chiesa per il suo regno fino all'estremità della terra. Quindi io prego affinché possiamo concentrare i nostri cuori e possiamo innalzare questa preghiera a Dio con tutto noi stessi. Facciamolo quando lo leggo. Vi prego di pregarlo insieme a me mentre lo leggo questo salmo, il meraviglioso e glorioso Salmo 67. Al direttore del coro, per strumenti a corda, salmo, canto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi, affinché la sua via sia conosciuta sulla terra e la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, oh Dio, tutti quanti i popoli ti lodino, le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia, sei la guida delle nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, tutti quanti i popoli ti lodino, la terra ha prodotto il suo frutto, Dio, il nostro Dio, ci benedirà, Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Amen. Amen. Questa è la preghiera del Salmo 67. A dire il vero, questa sera abbiamo il tempo solo di guardare ai primi due versetti, perché dopo la prima frase avevo quasi quattro pagine di appunti, quindi è andata così questa volta. Per il resto del Salmo faremo un'altra volta, però ci concentreremo sui due primi versetti. Il primo versetto, il versetto 1, contiene la preghiera della benedizione sacerdotale. A dire il vero non è, diciamo, originale a questo salmo, questa preghiera, ma è già contenuta in Numeri 6. E in Numeri 6 c'è proprio scritto che Dio parla direttamente a Mosè e dice a Mosè di dire ad Aronne, il sommo sacerdote del Tempio, di pregare questa benedizione ogni giorno sul popolo. Quindi il popolo di Israele la conosceva benissimo questa preghiera, era una preghiera molto familiare al popolo di Israele, la mia stessa preghiera, che questa preghiera possa diventare nostra, possa diventare così familiare, che è così memorizzata, così naturale da pregarla con molta familiarità. E la prima frase di questa preghiera, l'abbiamo letto, è proprio questo: Dio abbia pietà di noi. Dio abbia pietà di noi. Inizia proprio bene sta preghiera, no? Cioè, poteva dire molto, cioè, pietà, questa parola bella pesante, una preghiera inizia proprio bella pesante, no? Oh, inizia pesante o no? O è bella leggera? Secondo me poteva iniziare con: Signor, buongiorno, innanzitutto. È bello vederti, è bello venire davanti a te. Ti voglio bene. No, da subito questa preghiera dice: Dio abbia pietà di noi, Dio estenda la sua grazia verso di noi. Nell'originale è proprio questo il senso del verso: un essere soprannaturale, un essere più alto che si piega in tutta la sua bontà e in tutto il suo amore verso l'essere inferiore. Egli mostra amore, egli mostra cura. E questo è quello che Dio chiede a te e a me di pregare a Lui insieme, perché è un salmo comunitario, ogni giorno. Dio abbia pietà di noi. È il primo grido di questa preghiera ed è un grido meraviglioso. Ricordate, i salmi servono a curvare i nostri sentimenti, a curvare i nostri pensieri e di conseguenza a curvare e a modellare le nostre azioni secondo la volontà di Dio. Questa preghiera fin dall'inizio fa questo in modo glorioso, per questo non è pesante. Fin dall'inizio questa preghiera vuol far combaciare le nostre sensazioni, le nostre azioni, i nostri sentimenti a quelli di Dio, e inizia con un grido di pietà. Questa preghiera, fin dall'inizio, dichiara una cosa, dichiara il problema che tu e io abbiamo, e questo problema si chiama peccato. E lo dichiara fin dall'inizio. Dichiara: Dio, abbi pietà di me, perché io sono peccatore e io ho bisogno della tua. Io ho bisogno che tu dal tuo alto, dal tuo glorioso alto, dal tuo santo alto, ti pieghi verso di me in tutta bontà, in tutto amore, e estendi la tua grazia e il tuo amore verso di me, perché io sono peccatore. Siamo tutti peccatori, tutti, nessuno è giusto, neppure uno, dice la parola di Dio. Gesù l'ha messa così: siamo tutti assassini, adulteri, bugiardi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché Gesù ha detto: se ti arrabbi con il tuo vicino, con il tuo amico, è come se l'hai assassinato. Se guardi quella donna con piacere, come per volerla, sei un adultero, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, e abbiamo questo problema. E la preghiera di questo salmo, fin dall'inizio, fa combaciare i nostri sentimenti con quello che sono quelli di Dio. E questa è una buona notizia. Questa è una preghiera bellissima ed è una preghiera gloriosa. E qualcuno di voi potrebbe dire: ma Gianluca, è meno male che è fantastica ed è bella, ma è così. Guardate, il primo passo verso la salvezza è proprio questo. Il primo passo verso la redenzione, verso la vita, verso la libertà dalla schiavitù, verso la gioia, verso la pace, è proprio questo. Dio, abbi pietà di me. È proprio questo, è riconoscere il proprio peccato. E riconoscerlo e dire: Signore, io riconosco che sono privo della tua gloria, che sono un assassino, che sono un bugiardo, che sono un adultero, e ho bisogno della tua grazia, ho bisogno della tua liberazione, ho bisogno della tua misericordia. Vieni in tutta la tua bontà, vieni in tutto il tuo amore e salvami. Io ho bisogno di te. Gesù l'ha messa anche in un'altra parola. Nel sermone sul monte, in Matteo 5, ha detto: beati i poveri in spirito. Beati i poveri in spirito, in altre parole, o due punti, è: abbi pietà di me, abbi pietà di me. I poveri in spirito sono quelli che riconoscono che spiritualmente, emotivamente, fisicamente, metteteci tutto quello che volete, siamo in bancarotta spirituale nei suoi confronti, siamo peccatori. Chiesa, che questa diventi la nostra preghiera, che abbi pietà di noi, anche se è un termine pesante, possa diventare un termine di moda fra di noi, è in voga. Che tutti quanti noi, con naturalezza, con sincerità, come diceva il pastore, possiamo gridare a Dio e dire: abbi pietà di me, Signore. Perché io senza di te non sono nulla. Io riconosco il mio peccato e ho bisogno di te. Beati i poveri in spirito. Questo è quello che Gesù diceva quando diceva questa frase nel sermone sul monte. Il grido di pietà, il grido "abbi pietà di noi, Signore" del Salmo 67 risveglia il peso del peccato in noi. E fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di risvegliare il peso del peccato nella nostra vita. Tu e Dio, io più di te sicuramente sono peccatore, e ho bisogno di prenderne piena consapevolezza. Ho bisogno di capire che mi addolora e addolora Dio più prima e più di tutto. Ho bisogno di capire che distrugge me e quelli intorno a me, e allontana Dio da me. Io ho bisogno di sentire tutto il peso del peccato che ricade sulle mie spalle e che mi porti alle mie ginocchia. Io e tu dobbiamo riconoscere che siamo peccatori, dobbiamo farci schiacciare dal peccato. E non lo dico a caso, Dobbiamo farci schiacciare dal peccato, dobbiamo farci portare giù, giù, giù e giù, perché il peccato è una cosa miserabile ed odiosa e brutta, brutta, brutta. Per questo noi gridiamo: abbi pietà di noi, Signore, salvaci. Però dobbiamo farci spingere, schiacciare dal peccato, ma non a disperazione e depressione. Dobbiamo farci spingere dal peso del peccato sulle nostre ginocchia, o che il peso del peccato possa spingerci verso la croce. Perché quanto più, fratelli e sorelle, quanto più noi riconosciamo nella nostra vita il peso del peccato, quanto provoca dolore a noi e a Dio, quanta distruzione provoca a noi, al nostro fratello e alla nostra sorella, tanto più noi riconosceremo la gloria della croce, tanto più riconosceremo il miracolo che Cristo Gesù ha fatto per te e per me. Se io non comprendo la profondità e il malessere del peccato, non comprenderò a fondo il glorioso bagliore della croce e della sua salvezza. Per questo io prego che il peso del peccato ci schiacci, ma non a depressione e disperazione. Sapete perché? Perché Dio ha preso il tuo e il mio peccato e l'ha riposto su un paio di spalle. L'ho riposto su un paio di spalle. E quando ha risposto quel peccato su quelle spalle, lo hanno schiacciato così gravemente e così distruttivamente che l'hanno fatto sprofondare nell'inferno più profondo, dove c'è la morte e la morte eterna, dove c'è il dolore che più dolore non si può. Dio ha fatto questo. Dio, c'è scritto, è Dio che ha fatto questo. Ha preso il tuo e il mio peccato e l'ha fatto ricadere sulle spalle di suo figlio, ammazzandolo su quella croce e facendolo sprofondare nell'inferno più profondo. Solo per 3 giorni però. Perché al 3° giorno, fratelli e sorelle, lui ha vinto il peccato, ha vinto la morte ed è risorto. Per questo adesso, se io muoio il mio peccato, se io riconosco il suo peso e grido a Cristo Gesù e dico: abbi pietà di me, con lui muoio e con lui risorgo a novità di vita. Capite perché io devo comprendere la profondità e il peso del peccato in questa vita per comprendere la gloria e la bellezza della croce e di quello che lui ha fatto per te e per me e la gloriosa essenza che è la grazia nella tua e nella mia vita. Abbi pietà di noi. Questa è la prima frase della preghiera. Questa è la prima frase del Salmo. E tutte queste verità sono contenute in questo grido. La mia preghiera è che questa possa diventare la nostra preghiera per il 2016, profeticamente. Chiesa, che possiamo gridare con sincerità sempre di più a Dio: abbi pietà di noi. E la preghiera non finisce lì. La preghiera va avanti e dice: e benedicici. E Dio, benedicimi perché ho bisogno del tuo bene. In altre parole, che cosa significa questo? Efesini 1 dice che Dio ci ha benedetto di ogni benedizione in Cristo Gesù. Noi abbiamo già ricevuto ogni benedizione in Cristo Gesù. Gesù ci benedirà, Dio ci benedirà se noi gridiamo a Lui. Lui ci benedirà. Gesù lo ha detto anche in questi termini, ha detto: voi che siete malvagi, parlando ai papà nella folla, no? Diceva: voi che siete malvagi, quando un figlio vi chiede un pezzo di pane, mica gli date una pietra, e quando vi chiede un pesce, mica gli date un serpente. E Gesù dice: voi che siete malvagi, fate questo, quanto ancora di più il Padre mio, che è buono, non vi benedirà di ogni cosa buona. Dio ti benedirà, Dio ci benedirà. Per questo noi gridiamo a Lui ogni giorno, insieme. Andiamo l'uno all'altro anche a confessare, a dire: senti Giuseppe, senti Antonio, senti Vito, io ho bisogno della pietà di Dio perché ho peccato. Ho bisogno della sua benedizione, della benedizione che c'è solo in Cristo Gesù. Questo è un salmo comunitario, è una cosa che la Chiesa fa insieme, che noi siamo chiamati a pregare insieme. La terza parte della preghiera è: fai risplendere il tuo volto su di noi. Fai risplendere il tuo volto. Abbiamo parlato più volte nei salmi di che cosa significa la luce del suo volto. E questa frase nell'ebraico originale si può rendere pure così: Signore, illumina il tuo volto, fallo risplendere della tua luce, che è più gloriosa della luce del sole, falla risplendere e accendimi, accendi me, accendi il mio volto. Ora, quando un volto si accende, quando un volto si illumina, che cosa fa? Che cosa fa? Sorride. Quando un volto si illumina, sorride. Guardate l'essenza di Dio, la sua luce, come abbiamo anche sentito la scorsa settimana, è gioia. E guardate l'inganno del nemico, quanto sottile è. Perché lui è il padre delle menzogne ed è lui che viene con le sue bugie e ci dice: guarda che quando ti arrabbierai e troverai giustizia per il torto che ti è stato fatto, lì avrai pace, lì avrai gioia, lì avrai giustizia. Quando il nemico viene ci suggerisce, quando avrai quella donna, in un modo o nell'altro, fisicamente o pornograficamente, quella sarà la vera soddisfazione e la vera gioia. Se avrai quel gruzzoletto in banca o sotto forma di una macchina, di una casa, di un giocattolo, allora sarai non solo felice, ma sarai qualcuno. Gli altri ti guarderanno per quello che sei finalmente. Menzogne, menzogne, menzogne, menzogne. Non è la vera gioia. Dio è la vera gioia. Dio è quello che ci illumina e illuminandoci ci dà la vera gioia, la pura gioia. Il resto sono tutte menzogne, fratelli e sorelle, e Satana è lì che ci tiene in trappola, suggerendoci le vecchie menzogne. Che altro è gioia all'infuori di Dio? Per questo noi preghiamo come Chiesa: Signore, fai risplendere il tuo volto su di me, perché io so che la tua essenza, quello che tu sei, quando tu sei con me, quando tu vivi con me, quando io sono la tua presenza, lì c'è la vera gioia. Lì c'è la vera gioia e nient'altro mi interessa più, nient'altro può paragonarsi a questo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Faccia egli risplendere il suo volto su di noi. Virgola. E dopo la virgola c'è un termine ebraico, Selah, che molto probabilmente è un termine musicale che significa pausa. Guardate, la preghiera non è finita, perché c'è scritto faccia risplendere il suo volto su di noi, virgola. La preghiera continuerà, però c'è questo termine, pausa. E sicuramente serviva a cantarlo questo salmo, serviva a guidarlo alle pause musicali, a quello che è, ma io mi dico, è mai possibile che il Signore, in tutta la sua saggezza, millenni dopo, ha predestinato questo termine in questo punto del Salmo affinché noi ci fermiamo e ponderiamo su queste cose? Secondo me, in altre parole, questa pausa sta dicendo fermati, pondera su queste cose. Quando le preghi, pregale con sincerità. Fermati e pondera, non farlo automaticamente. Dio, abbi pietà di me. Dio, benedicimi. Dio, fai risplendere il tuo volto su di me. Pausa. Chiesa, pondera queste cose. In questo momento chiudi i tuoi occhi. Pondera questa preghiera. Rifletti su questa preghiera. Falla scendere nel tuo cuore. Signore Gesù, abbiamo peccato, ho peccato contro di te. E io ti chiedo la tua misericordia, la tua grazia, E io ti ringrazio, perché tutto è compiuto già, ed è stato compiuto su quella croce per me. E questa è la benedizione più grande, più eccellente. Padre, grazie, perché attraverso quel sacrificio e al fatto che i miei peccati ricadono sulle sue spalle, che io posso venire davanti a te, io posso approcciarmi al tuo trono con confidenza, entrare nella tua presenza e scoprire la vera gioia, la gioia eterna. Padre, grazie per questa preghiera, che diventi il nostro grido per questo anno che ci sta davanti. Amen. Amen? Amen? Non è una preghiera gloriosa. Non c'ho ragione io. E non è neanche finita. Perché il verso 2 dice con un affinché, inizia con un affinché. E questo è il fulcro, è lo scopo della preghiera. Cioè noi preghiamo misericordia, benedizione e la sua presenza di gioia nelle nostre vite per uno scopo ben preciso. In altre parole, se noi rendiamo questo scopo, lo scopo della nostra vita, lui continuerà a mostrare misericordia, continuerà a mostrare la sua benedizione e continuerà a mostrare e a venire con la sua presenza nelle nostre vite, singolarmente e come Chiesa. Questo è l'affinché. Noi preghiamo, Signore, abbi pietà di noi, Signore, benedicici, fai risplendere la tua presenza su di noi, affinché. E qual è questo affinché? Affinché la tua via sia conosciuta in tutta la terra e la tua salvezza fra tutti i popoli. Questo è l'affinché. Questo è il nostro DNA, come vedremo. Questo è quello che noi siamo. Questo è quello che, questo è il nostro affinché. A questo noi guardiamo avanti. Questo è verso ciò cui noi ci protendiamo, avendo lasciato le cose vecchie, il nostro peccato alle spalle, implorando misericordia, guardiamo avanti affinché tutti i popoli della terra possano ricevere la stessa cosa. Qual è? Perché qui dice, verso 2, la tua via sia conosciuta. Qual è la sua via? Qual è la sua via? Se non la grazia. Qual è la sua via? Se non darci un'opportunità di gridare a lui, Dio, abbi pietà di me, salvami dal mio peccato, benedicimi e vieni con la tua presenza. Questa è la sua vita, è la sua via, per te, per me e non solo, fino all'estremità della terra. Qual è la sua salvezza? È la sua benedizione. È Cristo Gesù, speranza di gloria, in te e per me soltanto, per tutti i popoli della terra. Qual è l'affinché di questa preghiera? L'affinché di questa preghiera è il grande mandato. E noi a questo guardiamo in maniera gloriosa quest'anno avanti. L'abbiamo fatto domenica scorsa, mandando uno dei nostri. Lo faremo, Dio volendo, molto probabilmente, fra altri mesi, mandandone un'altra. A questo noi guardiamo avanti. Questo è l'affinché di questa preghiera. Signore, benedicici. Signore, vieni in nostro aiuto, vieni in nostro soccorso. Cambia, trasforma le nostre vite affinché questo possa risplendere fino all'estremità della terra. L'essenza è il grande mandato. Chiesa, noi abbiamo un grande mandato. Lo sapete? Non solo come credenti, ognuno ha un grande mandato come credente perché è contenuto nella parola di Dio, ma abbiamo un grande mandato anche come Chiesa, contenuto nel nostro motto, impegnati ad ubbidire al grande mandato. E grande mandato sono due parole, non una. Non è un mandato, è un grande mandato. Se fosse un mandato, saresti chiamato ad andare ai tuoi amici, nella tua scuola, nel tuo vicinato, al mercato della tua città, ai tuoi parenti, conoscenti, punto. Questo è un mandato, ma noi non abbiamo solo un mandato. Noi abbiamo un grande mandato. Il nostro grande mandato è sulla terra, è fra tutte le genti, fino all'estremità della terra. Questo è quello a cui noi siamo chiamati. Questo è quello che è il nostro grande mandato, ed è grande. Sapete, dici, Gianlu, noi siamo quelli che siamo, tutti i popoli, sì, tutti i popoli della terra, perché quello che è impossibile a noi non è impossibile a Dio. Sapete Gesù quando l'ha dato il grande mandato? Quanti discepoli c'erano? 12, 70, 120, qualcuno in più, aggiungetelo pure. Però da subito Gesù ha detto a tutti i popoli, a tutte le etnie, tutta l'autorità mi è stata data, andate, a nessuno escluso, fino all'estremità della terra. Il Signore lo ripete oggi, questa è la nostra essenza, questo è il nostro DNA. Sapete perché dico che è il nostro DNA, cioè quello che rende chi noi siamo? Il DNA ci rende esseri umani. Il nostro DNA da credenti è un'altra cosa. Perché se il Salmo 67 ricorda o ripete la preghiera sacerdotale, il fondamento di questa preghiera è un'altra cosa, molto familiare. Benedetti per benedire. Benedetti per benedire. Non vi ricorda il patto che Dio ha fatto con Abramo? Ha detto, io ti benedirò affinché in te siano benedette tutte le famiglie della terra. Questo è il nostro DNA da credenti. Galati dice che chi ha fede in Cristo Gesù è vero figlio di Abramo. Hai creduto in Cristo Gesù per la misericordia dei tuoi peccati? Puoi alzare la mano questa sera se è così. Amen. Il tuo DNA è benedetto da questa immensa benedizione per essere una benedizione fino all'estremità della terra a tutti i popoli. Questo è il nostro DNA, questo è il tuo e il mio DNA. Quindi noi siamo benedetti e riconosciamo che il nostro DNA è questo. È il nostro DNA come chiesa, dicevo del motto. Siamo stati fondati da operai che hanno lasciato padre, madre, fratello, sorella, zie, chiesa, averi, lavori. Hanno lasciato tutto per venire a Modugno dall'Olanda per condividere il Vangelo. E far sì che io e tu oggi potessimo essere qui. Non è una cosa meravigliosa, è il nostro DNA. Io sono orgogliosissimo di contare mia madre fra questi. Grazie, ma. Grazie. È il nostro DNA, è quello che noi siamo come Chiesa, a tutti i popoli, fino all'estremità della terra. Noi siamo benedetti per benedire, riconosciamo questo e riconosciamo che è la nostra chiamata. Gesù ha detto in Giovanni 4,35, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere. Sapete quando Gesù ha detto questa cosa di alzare gli occhi? Lo ha detto ai discepoli che erano preoccupati di magnà, che ci avevano fame, preoccupati con il loro ombelico, a un pozzo. Arrivano e dicono, Gesù, hai mangiato? Come un bombarese. Si mangia? Hai fame? E Gesù risponde così. E dice, alzate gli occhi e guardate che c'è molto di più dei vostri ombelichi. Alzate gli occhi e guardate, c'è molto di più dei vostri stomaci. Alzate gli occhi e guardate, al di là di quello che vivete quotidianamente, della vostra fame e della vostra pancia, c'è molto di più. Sapete quando l'ha detto questo Gesù? Quando aveva appena mandato la donna samaritana nel villaggio di nuovo. È la prima volta che Gesù è uscito dalla sua cultura, dal suo popolo, i giudei, e ne è andato in un'altra cultura, in un altro popolo. Ed è interessantissimo che in un'altra cultura, in un altro popolo, lui dica ai suoi discepoli, alzate gli occhi e guardate oltre, perché la volontà del Padre mio non è il pane che voi dite, ma chi gli ha portato da mangiare, è fare la sua volontà fra tutti i popoli della terra. Alza gli occhi, Chiesa! Alza gli occhi, c'è un mondo che ti sta aspettando. Alza gli occhi. Quando vedi il telegiornale, quando vedi le altre nazioni, non reagire di pancia. Ma quelli sono così e quelli sono così. No, Gesù ha detto alza gli occhi e guarda che sono bianchi pronti per la mietitura. Li devi guardare così. Non li guardare con gli occhi che assomigliano ad assassini. Assomigliano. Siamo tutti peccatori, l'ho detto prima. Se ti sei arrabbiato contro qualcuno, sei tanto peggio quanto uno dell'ISIS, per Dio. Uguale. Alza gli occhi e guardali in modo diverso. Gesù li ha guardati con gli occhi d'amore e ha detto sono bianchi, pronti per la mietitura. Alza gli occhi, Chiesa. Alza gli occhi, Chiesa. Questo significa affinché. Questo è l'affinché. E come facciamo tutto questo? Come facciamo tutto questo? Siamo chiamati a raggiungere questi popoli. Fratelli e sorelle, ci sono 1,6 miliardi di persone. È un numero immenso. È quasi, che cos'è? Un quarto della popolazione sulla terra, di tutta la terra. 1,6 miliardi di persone. Sono tanti, tanti, tanti. E queste persone, fra di loro, non hanno neanche una che gli dica: Cristo Gesù ti ama. Cristo Gesù è la soluzione al tuo peccato. Se tu gridi a Lui, Lui ti benedirà. Lui ti perdonerà, Lui ti salverà, Lui ti darà libertà, nuova vita. E Lui ti farà ricevere il Padre. Non c'è neanche uno fra di loro. Ci sono 6.000 popoli, più di 6.000 popoli non raggiunti dal Vangelo. Popoli, plurale. Questo significa che il popolo italiano ha 60 milioni di persone. E almeno c'ha noi per condividere il Vangelo. Amen? Siamo molti di più, non siamo solo noi. Ma almeno hanno noi. Ci sono 6.000, più di 6.000 popoli che non hanno neanche una persona fra di loro a dire: puoi gridare a un Dio, c'è un Dio che ascolta il tuo grido di misericordia. C'è un Dio che ti può benedire e salvare. C'è un Dio che può venire con gioia e gioia vera. 6.000, oltre 6.000 popoli, che cosa facciamo di tutto questo? Chiesa, cosa facciamo di tutto questo? Avanti insieme. Noi corriamo verso questo. Amen? Noi corriamo verso questo. L'abbiamo fatto domenica scorsa. Lo faremo di nuovo fra poco, Dio volendo, e lo rifaremo, e lo rifaremo, e lo rifaremo. Perché? Perché tutti i popoli sono degni di potersi unire a noi in questa preghiera. Amen? Come lo facciamo? Preghiamo, preghiamo, noi preghiamo per i popoli non raggiunti una volta al mese più o meno, il lunedì sera ci riuniamo come chiesa e preghiamo per questi popoli e diciamo: Signore, apri la porta per il Vangelo per questi popoli, fa che tu stesso possa aprire la porta per questi popoli affinché alcuni possano andare e portare la tua speranza, portare la tua salvezza, portare la tua liberazione. Questo facciamo insieme. Se non sei mai venuto, devi venire, devi venire. Devi unirti insieme a noi, devi farlo, devi unirti al nostro affinché, devi unirti al nostro affinché. Sapete, se noi benediciamo questi popoli con la nostra preghiera lunedì sera, il Signore continuerà a benedire noi, con la sua misericordia, con la sua benedizione, con la sua presenza. Preghiamo, due, noi andiamo, l'ho già detto. Mandiamo persone e persone vanno. Persone capiscono: sì Signore, io non posso rimanere qua sapendo che 1,6 miliardi di persone lì fuori muoiono senza speranza in te, che ci sono più di 6.000 popoli senza la tua speranza, senza il tuo Vangelo, senza la tua gioia. Io vado. Se questa sera, quando ho citato quei numeri, qualcosa si è mosso in te, se chiudi gli occhi e dici: 1,6 miliardi di papà, di mamme, di bambini, 1,6 miliardi di persone, e questo accende un fuoco in te, non ignorarlo. Molto probabilmente il Signore ti sta chiamando. E non c'è cosa più gloriosa di offrire la tua vita in sacrificio a Lui fino all'estremità della terra, ai popoli della terra. Non ignorare quel tuo fuoco in te. Il Signore molto probabilmente ti sta chiamando. Lo ha fatto con altri e continuerà a farlo in mezzo a noi, fratelli e sorelle. Non ignorare quella chiamata. Non c'è meglio per la tua vita che servirlo così. Non c'è stato niente di meglio per me, per la mia vita, farlo. Non ci sarà niente di meglio per la tua vita di farlo. Vero, ma? La terza cosa che facciamo è noi mandiamo. E noi mandiamo perché Romani 10 dice questo. Romani 10 dice: come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non ci sono coloro che li manderanno? Noi siamo chiamati a mandarli. E lo facciamo prima e più di tutto finanziariamente. Al di sopra delle nostre decime e delle nostre offerte, noi investiamo ancora di più generosamente affinché il suo Vangelo possa arrivare su tutta la terra e fra tutte le genti. Questa è la nostra chiamata, questo è il nostro DNA. Noi mandiamo, noi diamo. Sapete, voglio dire questa cosa perché è importante, e lo dico sempre. La croce di chi rimane non è più leggera, e non è più soave, e non è un sacrificio di adorazione a Dio minore rispetto a chi va. La croce di chi va è tanto pesante quanto quella di chi rimane. Non ti puoi permettere di dire: mo signor, meno male che è capitato a lui e non a me. Grazie. Yeah, ma. Non è così. Non è così. Il Signore sa quello che sta facendo. E alcuni li chiama ad andare. E alcuni li chiama a rimanere per essere luce e sale qui. Da Gerusalemme, dalla nostra città. Ma chi rimane? E la croce di chi rimane non è più leggera. Non è più leggera. Il nostro sacrificio di lode e adorazione a Dio non può essere più leggero di quello di Marta. Immaginate il sacrificio che Marta sta facendo questa settimana, la sua prima settimana sul campo. La tua e la mia croce non può e non deve essere più leggera. Per questo noi diamo in sacrificio di lode e adorazione a Dio. Per questo abbiamo la cassetta nel retro. E per questo voglio farvi vedere questo video. Ciao Chiesa, saluti da Sheffield. Noi stiamo bene, grazie per questa opportunità che ci state dando di essere parte della vostra serata speciale. Con questo video vogliamo condividere alcune notizie e sviluppi del progetto Michè in Uganda, nel quale io e Alice siamo direttamente coinvolti da circa 5 anni. Questo è un progetto che abbiamo molto a cuore, che abbiamo cominciato con alcuni fratelli del posto in Uganda in seguito a un viaggio che abbiamo fatto nel 2010 io e Alice. È un progetto che vuole principalmente aiutare alcune famiglie che sopravvivono economicamente, non hanno quasi niente e di conseguenza hanno una difficoltà a mandare specialmente i propri figli a scuola. Dio sta benedicendo questo progetto tantissimo, stiamo vedendo un periodo di espansione delle attività e anche del numero delle persone coinvolte e non ultimo anche i doni che stiamo ricevendo che ci stanno permettendo di espandere questo programma. Tutto sta andando al di là di quello che noi pensavamo o immaginavamo. Quindi cos'è il progetto Michea? Il progetto Michea è nato con uno scopo e una visione, quella di adoperarsi per questa ingiustizia sociale, incoraggiare e benedire in maniera molto pratica alcune famiglie che vivono in questi due villaggi remoti dell'Uganda. Al momento abbiamo 26 bambini sostenuti, ma questo non è tutto perché nel 2015, in questo anno, con i doni ricevuti siamo riusciti a comprare un pezzo di terra dove c'è la visione di costruire una piccola scuola nel 2016 in uno di questi due villaggi. Inoltre sono cominciate anche tante altre attività per le famiglie coinvolte, come piccoli progetti agricoli, alfabetizzazione per i genitori, insomma c'è tanto che al momento sta succedendo. Il dono che come Chiesa ci avete mandato e la generosità che ci avete mostrato è stata davvero una risposta alle nostre preghiere, anche una grossa benedizione, è arrivato il momento giusto, proprio quando c'è in cantiere la costruzione della scuola. Questo succede solo se gli diamo la possibilità, la disponibilità e diventiamo le sue braccia, diventiamo la sua bocca, la sua luce. Quindi Chiesa, grazie ancora per questa opportunità di condividere quello che sta succedendo con il progetto Michea in Uganda. Grazie tanto, ci sentiamo parte di voi, siete nei nostri cuori e ci vediamo presto. Ciao. Amen. Noi chiediamo la benedizione del Signore e di farci prosperare anche economicamente affinché ci sia una scuola in Uganda nelle cui classi la sua gloria possa risplendere, il suo Vangelo possa essere predicato, affinché in università, nel mondo arabo, nel Medio Oriente, affinché nei mercati e per le piazze, dei posti più impensabili, ci possano essere persone che predicano la speranza in Cristo Gesù. Amen. Per questo noi diamo, per questo noi permettiamo di andare. Il Salmo 67, abbiamo visto solo i primi due versetti, però conclude con una dichiarazione di fede. Se all'inizio il Salmo 67 grida a Dio, Dio dice: Dio, dammi pietà, Dio, dammi la tua benedizione, fai risplendere la tua luce, alla fine è diverso. È diverso come suona, e anche questo deve modificare le nostre preghiere, come le iniziamo e come le finiamo. Perché la preghiera finisce con una proclamazione di fede e dice: Dio ci benedirà. È un'affermazione. E dice: Dio lo farà. È come Davide che dice: Dio mi ha aiutato a sconfiggere quel leone e quel rosso e mi darà grazia di sconfiggere il gigante. Dio ci benedirà. Dio avrà misericordia di noi se noi gridiamo a Lui. Lui farà risplendere il suo volto e la sua benedizione e la sua gioia regnerà nei nostri cuori. Dio lo farà. E Lui farà risplendere il suo Vangelo e la sua parola fino all'estremità della terra. Lui lo farà. Lui lo sta già facendo. Qualcuno ha detto: è come una fiumana che già è in piena e già sta scorrendo. Quello che noi dobbiamo fare è saltare dentro per farci trasportare insieme fino all'estremità della terra. Dio lo farà, Chiesa. E Dio lo vuole fare in te e in me attraverso di noi. Per questo io prego affinché questa possa diventare la nostra preghiera per quest'anno. Che possiamo con tutto noi stessi percepire la profondità del peccato e non renderla una cosa leggera. Lasciamoci schiacciare da esso. Ma lasciamoci schiacciare sulle nostre ginocchia e spingerci verso la croce, affinché possiamo capire ancora di più la meravigliosa, il meraviglioso miracolo che Lui ha fatto per noi. Imploriamo a Lui, gridiamo a Lui e Lui ci benedirà e Lui verrà con la sua presenza che è gioia indescrivibile, affinché possiamo portare questo fino all'estremità della terra. Amen. Preghiamo questa preghiera insieme, ci alziamo in piedi, chiudiamo i nostri occhi. Questa sera il Signore ti sta chiamando a rendere questa preghiera tua. E non so quale elemento ti ha colpito di più, quale elemento di questa preghiera lo Spirito Santo ha voluto usare in maniera potente per accendere quel fuoco nel tuo cuore, perché la parola fa così quando corregge, quando rimprovera, quando istruisce ed educa. Prendi una posizione questa sera nei confronti di questa preghiera. Comprendi qual è la tua parte, comprendi qual è il tuo pezzo e inizia a pregarla. Prendiamo un minuto per farlo.